A me sembra di sentire in giro un'aria pesante, di sentire in giro gente scoraggiata, gente stanca, gente che si ingozza di notiziari e va giù di giro, perché sente che in Francia è così e fra una decina di giorni saremo anche noi cos'ha, e sente c'è in giro molta, molta stanchezza e molta gente impaurita. Allora, mi sembra anche che ci sia meno preghiera di questa primavera. Forse questa primavera, di fronte a questa pandemia che avanzava, era tutto un fiorire di rosari, di preti che andavano in giro a benedire con tutte le invenzioni, le ricorderete, no? Quel sacerdote sul motocarro in giro col Santissimo Sacramento, gente che andava. Oggi sembra che ci sia un volare più basso, la gente è stanca, giustamente, no? E allora io scoprivo questa mattina nella parola di Dio una grande consolazione. Vedo anche tanta gente che si affida ai santi e fa molto bene, ma affidarci a Dio Trinità d'amore è il massimo. Fratelli, diceva Paolo agli Efesini, voi non siete più stranieri, non siete più ospiti. Io aggiungevo un'altra parola, non siete più immigrati. Perché amici, finché noi le cose non le proviamo, non le capiamo, cosa vorrebbe dire? Non osiamo neanche pensarlo, che siamo noi sui barconi che arrivano qui. Provate a pensare. No, non pensiamolo, sennò ci spaventiamo ancora di più. Bene, noi non siamo più stranieri, ospiti, immigrati, ma siamo concittadini dei santi e familiari di Dio. E poi continua, nel Signore voi siete edificati per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Cari amici, io vi invito oggi, se avete in mano queste parole, la lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetto 19, o meglio ancora se avete in mano il messalino quotidiano, prendetele in mano queste parole ancora oggi, tanto siamo un po' in casa, no? Ci dicono di stare ancora in casa, gustatele, approfonditele, sottolineatele, mangiatele. Non siamo più stranieri, ospiti, immigrati, ma siamo abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Non solo, va avanti il Vangelo di Giovanni al capitolo 14, versetto 19. Voi saprete che io, è Gesù che parla, sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Queste parole sono impagabili. Noi siamo in Gesù, altro che i santi, amici, che io amo, che io amo tantissimo, altro che la Madonna, che io amo tantissimo. Ma Gesù è in noi e noi in Lui. Abbiamo bisogno di starci su queste parole, amici. Abbiamo bisogno di macinarle, abbiamo bisogno di gustarle. Chi ama me, continua Gesù, sarà amato dal Padre mio. Oh, guardate, io quelle poche volte che ho provato a sentire l'amore di Dio Padre, è una cosa impagabile. È una cosa impagabile. Forse perché io ho avuto un rapporto bellissimo con mio papà su questa terra e dico, mio papà è elevato all'ennesima potenza, quello è il Padre mio. sarà amato dal Padre mio, continua Gesù, e anch'io lo amerò. Amici, essere amati, amare è bello, ma sentirci amati è 100 volte più bello. Sentirci coccolati. E io mi manifesterò a Lui, continua Gesù, ma non è finita. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e ripete ancora Gesù, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e prenderemo abitazione presso di Lui. Oh, cari amici, che noi possiamo sperimentare questo. È questa la nostra consolazione, è questa che ci fa passare le paure, è questa che ci fa vincere le stanchezze, è questa che vince il nostro smarrimento in questo tempo. Prenderemo dimora presso di Lui. E non è finita. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa. Ecco chi è il vero maestro interiore, è lo Spirito Santo. E qui vedete che è riunita tutta la Trinità. Il nostro Dio, amici, non è Gesù. Il nostro Dio è la Trinità. Gesù certamente che ci fa conoscere il Padre e che ci fa conoscere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Che bello, amici, che bello. La parola di Dio è impagabile. Ci sono tanti bei libri. Io sto leggendo anche L'imitazione di Cristo, un libro favoloso. Eppure, come la parola di Dio, non c'è niente. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore e saziaci della tua parola, della parola della Trinità. Amen.